Qual è la capretta, Drago? Cioè, già, basta questo, quindi non serve aggiungere il beat loop. E poi ci aggiungiamo dopo il beat loop, c'è di nuovo un bassline. Dopo ci aggiungiamo uno stacchettino chiamato mover. Poi mettiamo un clap, mettiamo un jumper, un friso, uno snare, un fire, un bass drum, perché questo è il sound del venerdì. Ah, screcci anche un po', grande Drago. Vedo che anche a te, lo spirito del ti trasforma in un idiota. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Saluto da Drago. Ah, finalmente un altro venerdì che arriva senza fare troppo rumore. Beh, troppo rumore. Nelle case di tutti voi, nelle case di tutti noi, nelle macchine di tutti noi, perché alla fine la radio si ascolta più che altro nella macchina di tutti noi. Tu immagini sempre di parlare a qualcuno che è in macchina. Nella macchina di tutti noi, nel senso del car sharing. Provare proprio a parlare una sola macchina per tutti noi. Vabbè, comunque a me inquieta un po' questa tua ossessione. Quale? Per il venerdì. Perché? E soprattutto questa ricorrenza settimanale, perché è un segnale del tempo che passa. Sai bene che più passa il tempo, più invecchiamo e più invecchiamo. È questo il tempo. Drago, è questo l'unico tempo a cui devi dar retta. Upbeat tempo. Comunque più invecchiamo e più ci avviciniamo. Sì, ho capito, Drago, dove vuoi andare alla morte, ma no? Che è alla morte? Drago, cosa? Non mi puoi ammosciare così il venerdì, vabbè, corvi. Io non intendevo ammosciarti il venerdì. Io intendevo ammosciarti proprio. Ah, ecco, bravo, pure. Grazie. Oggi facciamo la prova generale di evacuazione in caso di affondamento del palazzo. Possono affondare i palazzi? Sì, affondano. Come no? Le fondamenta possono. Certo. Allora. Sì, evacuazione soprattutto, sì. Quindi si fa un piano, si fa tutti al gabinetto. Non si sa niente, sono arrivati degli ordini dall'alto. E che cosa dobbiamo fare? Non lo so, dai. Poi ci diranno che cosa. Adesso pare che non si tratti di sprofondamento in senso letterale, ma di una specie di, diciamo, crollo finanziario. Terremoto finanziario. Scusa, ma ti sembra una cosa da insegnare all'asilo? Ma non ho capito. I bambini ormai vengono trattati come adulti, bisogna insegnare le cose anche a loro. Ma le cose utili, non il terremoto finanziario. Insomma, la è utile, catastrofe quello. Naturale, allora uno sa come comportarsi se viene appunto un qualcosa. No, che un qualcosa niente, Drago, tu porti sfiga, quindi sta bravo. Allora, questa è una radio news and talk, fortemente indirizzata verso la finanza. Quindi qui tutto assume un significato finanziario. Ma no? Ho capito, cioè, ma una spiegami. Se sei triste e arrivi in questa radio, hai una tristezza finanziaria. Beh, se hai sete, sempre. Hai una sete finanziaria. Sì, però spiegami se il piano di evacuazione in caso di catastrofe finanziaria. Significa che ti insegnano a scappare con l'incasso prima che tutto crolli. E ora, bambini, ricreazione. Uè, ciao, voi due. Bambino albisola, tutto vestito d'arancione come un buddista. Vero, un buddista. Sì. No, cos'è un buddista? Un buddista. Un buddista è uno che crede in uno Buddha. Che... Bravo. Buddha. Credi in chi? Allora, basta con le cose difficili, Sei all'arancione, perché sei all'arancione? Allora, Hare Krishna, allora c'è un motivo, no? Sì. Sono vestito così perché oggi c'è l'esercitazione della protezione civile. Cos'è? Che ci devono insegnare come ci si deve comportare in caso di terremoto. Bisogna di mettersi sisma. Il giubbotto salvagente arancione, no? Quello sulla barca. E anche il terremoto, finanziario, il famoso. Ma no! Ma cosa c'entrano noi con la finanza? Il terremoto, quello che fa crollare le case, no? Ma meno male che gli insegnano quello, hai visto, capo? Altro che terremoto finanziario. Vabbè. Allora, che cosa avete imparato? Allora, cosa si fa quando c'è il terremoto? Prima di tutto, la premessa è che se dovesse venire una scossa di terremoto come quella dell'anno scorso in Giappone, lì non c'è niente da fare perché crolla tutto in un secondo, capito? Quindi possiamo fare anche tutte le esercitazioni del mondo. Bambino al Bamberg, è ovvio, cioè quello che è successo in Giappone con lo tsunami, eccetera, è un caso straordinario, non ci sono terremoti così da noi. In Italia no, allora, infatti. Cioè, lo dite a me. No, lo so. Allora, questa è stata la premessa del tizio della protezione civile. Ha detto, bambini, attenti, bambini, premessa, bla bla bla. E quindi la premessa è stata che se il terremoto è forte c'è poco da fare. Se c'è il terremoto tipo Giappone, siamo siete spacciati. Ho capito, sì, perché lui no, perché lui è sull'elicottero. Ah, nel bunker, ho capito. Della protezione 6, la control room. Cioè, sì, il bunker della cricca, no? Sì. Vabbè, dai, Alberto. A questa notizia che tutti dobbiamo morire? Prima o poi, ma no. Tutti i bambini si sono messi a piangere, almeno vabbè, quasi tutti. Ma per forza, cioè, devi insegnargli come ci si salva, mica che non c'è niente da fare. Allora, anche i bambini. Quello è il problema dei bambini, perché a me, per esempio, che sono più maturo, non è successo. Questi qui sono bambini con poca esperienza, quindi non hanno immaginazione, cioè non è che immaginano, se sentono dire Giappone, terremoto, tsunami, e loro... Cioè, hanno il crollo nervoso, no? Cioè non riesco a dire il puta caso, dice, tu dici puta caso, puta caso, dove sei io, sta scossa, è un disastro qui, tu? Pace bene, ecco, e qui tu ti rassegni, no, io in questo momento c'è la scossa, no, allora per adesso sto tranquillo, ok, ecco, sei vestita d'arancione, no, tranquillo, va bene, quindi talmente tanti bambini piangevano che si è dovuta sospendere la lezione. Sospendere, ma per forza, ma tu immaginati cosa vuol dire andare in un asilo poi a insegnare le procedure di salvataggio in caso di terremoto. Ma hai provato a spiegarlo? Guarda, non funziona neanche con i passeggeri della Concordia, che gli spieghi come si fa, loro se lo sbattono e poi anche i bambini se lo sbattono, piangono e basta, e non imparano niente. No, piangono e basta, altro che non solo piangono. Perché a un certo punto qualcuno se li fa anche addosso. Ecco. Vabbè, può anche capitare. E qualcuno, qualcuno è Gildo. Ecco. Ma come Gildo? Ma Gildo non esiste, come fa a farselo addosso? Così, se lo fa un po' immaginare. Allora, qui c'è la prova che c'era, a un certo punto c'era un odore inconfondibile, no? Sì, E di Gildo poi, cioè, perché ognuno c'ha il suo, no? Sei all'asilo, quindi succede all'asilo, dai, sono bambini, ogni tanto qualcuno se la fa anche addosso. Anche durante ma poi cosa avete fatto? Sospeso di nuovo la lezione della forse l'aria respirabile, la camera gas, no? Capito, vabbè. Poi le suore, a un certo punto, dopo aver reato l'aula, hanno cominciato a fissarmi, no? Cosa volete? È Gildo? Solo che anche loro, le furbe come voi, dicono che Gildo non esiste, no? Qui c'è il complotto, qui è la prova del complotto, no? Così mi hanno preso di forza, braccia e gambe, e mi hanno portato in bagno. Mi hanno lavato e cambiato, e mi hanno messo su la divisa della protezione civile, no? Hai capito perché? Sì, però io non ho capito, ti hanno lavato perché te l'eri fatta addosso. No, però, cioè, questo... allora, non fate i finti tonti. Ma... Era Gildo che se l'ha fatta addosso. Io la posta, infatti mi hanno lavato inutilmente. Tu eri pulito e ti hanno lavato. E quindi Gildo invece? E Gildo non si è più visto. Perché si è nascosto il furbacchione e non l'ha più visto. Ma basta seguire l'olfatto. Nascosto. Quindi, ma voglio dire, tu alla fine, bambino Alberto, non hai imparato niente sul terremoto. Cioè, sei stato cambiato. Sul terremoto no, però intanto ci ho guadagnato una divisa della protezione civile. Bella e utile. Cioè? Perché in certi frangenti può essere utile. Tipo nel traffico, no? Mio padre me la fa usare nel traffico. Ma tuo padre? Tuo padre me la fa usare. Come fa a usare la tua tuta tuo padre? No. Non gli sta. Allora, la indosso io. Tipo, allora, siamo nell'ingorgo, autostrada. Allora, lui mi fa sporgere da finestrino mezzo busto. Mi tiene come una palla a piede che mi tiene sicuro in macchina. Questa la divisa arancione, no? Questa è protezione civile. E lui comincia clacson, protezione civile, la gente vede, dice, scostiamoci che arriva la protezione civile. E tu ci sei fuori tu dal finestrino vestito d'arancione. Sì, qualsiasi stagione. Caldo, freddo, anche d'inverno. Ho capito. E quindi lì e salta il traffico. Furbissimi, no? Sempre così suo padre. Furbissimo. E poi alla fine passi tutto, arrivi il quarto d'ora, arrivi alla barriera, no? Sì. Al casello, voi siamo arrivati. E sì, c'è la polizia stradale. Dove? Al casello. Al casello che aspetta. Come al solito. E quindi c'è il multone, no? E mio padre, i punti della patente, che lui vuole scaricare a me. Ma io, prima non c'ho la patente. E poi sono della protezione civile, e quindi io sono esente, no? Prego, sai che questa è la radio della Confindustria? Cioè tu hai più di 40 anni, no, un po' di più, non diciamolo, dai. E hai un kazoo in mano, e per fortuna che è un kazoo, e fai il versetto della capretta a tempo con questo drum loop. Tu invece hai un maglioncino, rosa antico. Ho uno smartphone e sento rosa musica. Cos'è? Musica da, diciamo, una specie di coming out. Venerdì, perché oggi è venerdì. Tu hai fatto coming out. Quindi ringraziamo tutti quanti che ci hanno aiutato fino ad arrivare a questo weekend famoso venerdì. Quindi Carmelo Lauricello, oh yeah. Laura Faggin, oh yeah. Guido Bertolotti, yeah. Alberto Caserini, Salvatore Iori, dai, però. Chiara Nignemi, oh. Capo e Drago, venerdì. Ci risentiamo lunedì. Oh. Seguiteci con i podcast. Seguiteci con i video. Asta Damiano, insomma, ti ricordi quella pubblicità? Tutte le volte lo devi tirare fuori. Arredamenti. Asta Damiano. Per la tua casa. Ancora, magari poi tu già chiedi i soldi per questa pubblicità. No, ma magari lo Asta Damiano, pronto? E ci regalano un divano su cui passare il venerdì con il tuo cane.